Sicilia. Ma lo sai, c'è una bella moto, stasera voglio uscire con te. Hey. Ma lo sai, con quella bella moto, stasera sono giro per te. Sei come la mia moto, sei proprio come lei. Andiamo a farci un giro, fossi in te io ci starei. Sei come la mia moto, sei proprio come lei. Andiamo a farci un giro, fossi in te. Andare veloce, che quando sali su vedrai poi come ti piace. Due, perché con te potremmo andare in giro col serbatoio pieno e col giubbotto.